Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ma quel giorno lei era lì, alla fermata del Siete Sur, ed io scesi trafelato dall'autobus. Parlammo per pochi minuti e alla fine lei disse: starò a Managua da mia sorella per un po'. Sembra che i tempi per il visto si allunghino. Se vuoi, passa a trovarmi. Sono Marco D'Asti, 45 anni, sono sposato da 21 anni e ho due figlie. Le persone, uomini e donne, donne e uomini, si incontrano nei luoghi più assurdi, ovviamente, o anche più semplici. Si incontrano sul luogo di lavoro, si incontrano mentre fanno sport o mentre fanno un viaggio, mentre sono in un viaggio organizzato, magari sono da soli e quindi sono più predisposti a incontrarsi. Magari invece è un viaggio che non è organizzato e sono già in coppia e incontrano qualcuno di cui si innamorano, quindi mollano uno e si mettono con l'altro. Si incontrano per la strada, in automobile, sugli autobus, in metropolitana, sui treni, e poi si incontrano e si innamorano anche alle fermate degli autobus. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, il programma che state ascoltando si chiama Voi siete qui. Io sono Matteo Caccia e non faccio altro che dare la voce alle storie che tutte le persone che hanno voglia di farlo condividono, grazie a Radio 24, grazie a questo programma e ai suoi modi per condividere le storie. Ogni giorno raccontiamo una storia diversa, ogni giorno una persona diversa, ogni giorno cerchiamo di entrare in quel pezzo di vita che oggi, nella fattispecie, Marco, o chiunque abbia scritto questo programma, ha deciso di regalarci. 349-238-6666 se avete un telefono sotto mano con un sms pronto, altrimenti se avete uno smartphone sotto mano. Facebook, Voi siete qui Radio 24, Twitter, Voi siete qui R24, il mio Twitter invece è semplicemente Matteo Caccia. Arrivano delle storie di persone che si sono innamorate alla fermata dell'autobus, visto che la storia di Marco parla esattamente di questo. Gianni scrive: mi sono innamorato alla fermata dell'autobus alle superiori, durata il tragitto del tram, il 14. Ci scappò anche il bacio e uno scambio di numeri telefonici. Era il 1976. Capito? Quindi nel 76, giustamente Paolino dice bei tempi, poteva succedere. A me, alla nostra generazione, non è mai successo che uno nello spazio di un viaggio in autobus riuscisse a combinare qualcosa. Oh ragazzi, è inutile. Ecco, perfetto, Bonini c'ha subito un compagno di casa, un compagno di appartamento che l'ha fatto. Io non conosco nessuno. 349-238-6666, ancora Francesca. Oddio sì! I messaggi che cominciano con oddio sì già raccontano tutto. In una giornata di pioggia, in un paese sperduto dove lavoravamo entrambi, io e lui ci siamo innamorati. È finita dopo 6 mesi, ma per quel periodo l'essere pendolare non mi pesava. Perché succede così: tu sei seduto alla panchina, lui è seduto alla panchina, magari siete in piedi e c'è la tettoia della fermata degli autobus, o se è scrausa non c'è nemmeno la tettoia, non c'è nemmeno la panchina, c'è solo quel palo. Sei lì e state facendo una cosa insieme, che è aspettare. State aspettando che arrivi un mezzo di trasporto che vi porti da un'altra parte, e c'è una condivisione in qualche modo di quel tempo e di quello spazio. Poi ci sono milioni di condivisioni nella vita di ognuno di noi a una fermata dell'autobus, però ogni tanto capita che sia quella giusta, la condivisione. Francesca: proprio alla fermata dell'autobus, no ma quasi, però ancora non è finita. E poi Marco scrive: Torino, 5 gennaio 1991, verso sera in via San Donato, la incontro alla fermata dell'autobus. 10 anni dopo ci siamo sposati alla stessa ora, allo stesso giorno, non nello stesso posto, anche perché un marciapiede sarebbe alquanto stretto. Ora siamo qui, 13 anni di matrimonio e 2 maschietti. 349-238-6666, innamorati alla fermata dell'autobus. La storia di oggi, che è la storia di Marco. Allora, se siete affezionati al programma, Marco lo conoscete. Marco è uno del... una storia a stagione, sostanzialmente. Cioè, ogni stagione... 10? Beh, insomma, allora diciamo, mi dicono dalla regia che ne ha mandate 10 e ne abbiamo fatta una stagione, però non è che si può, diciamo, sempre arrivare là davanti. Una stagione, una storia a stagione. Marco, tra le altre, ci ha mandato questa storia, che è l'incontro con una ragazza di cui si innamora alla fermata dell'autobus. Quella ragazza adesso è sua moglie, e se qualcuno ha frequentato i live di Voi siete qui, ha anche avuto la fortuna di vederli, di incontrarli insieme ai figli. Però adesso il racconto è proprio proprio particolare, perché è un episodio molto semplice. Quindi so che è il 21 di gennaio oggi, e per lo più in questo paese il 21 di gennaio fa freddo. Però voi dovete cercare di immaginare di essere da tutt'altra parte. Immaginate di essere ai tropici, fa molto caldo, c'è un sacco di polvere che sale dalla terra. Siete su un autobus e fa anche lì, fa ancora più caldo. Siete sudati, l'autobus rallenta, avete tutt'altro per la testa. State pensando ad altro, forse volete andarvene da quel posto, forse volete rimanere. L'autobus rallenta, arriva alla fermata e lì vedete una donna. Pensandoci bene, quante volte nella vita ci troviamo dinanzi la nostra sliding door? Basta una lieve imprecisione, un anticipo o un ritardo e tutto può cambiare. Oppure niente cambia, è questione di secondi a volte. Dettagli minimi, in apparenza marginali, che invece fanno la differenza nel bene e nel male. A quella fermata, lì di fronte alla mia sliding door, la situazione era questa qui. Ero rimasto da solo in Nicaragua. L'altro volontario, David, il londinese, compagno di quell'avventura, era appena tornato in patria. E soprattutto, lei mi aveva detto che era tutto finito. È tutto finito, ho deciso di partire, vado negli Stati Uniti. Lì ci sono le mie sorelle, qui in Nicaragua non c'è possibilità di fare niente, né di progredire. E comunque siamo troppo giovani per impegnarci. E poi è quasi certo che mi daranno il visto per gli Stati Uniti, non posso perdere l'occasione, non mi capiterà mai più. Yasmina l'ho incontrata durante i miei anni di volontariato in Nicaragua. Io ero responsabile di un internato maschile in una scuola agraria, lei era studentessa dell'ultimo anno e alla fine dei suoi studi ci siamo incontrati e lì è iniziata la nostra storia. Mi rimbombavano nella mente le sue parole. E in quel momento mi svegliai di soprassalto sull'autobus e la vidi lì, davanti a me. Fermata del Siete Sur, la prima fermata di Managua per gli autobus che arrivano da sud, dalla zona cafetalera del dipartimento di Carraso. Polvere ai bordi della strada, caldo insopportabile, umido e denso. Venditori ambulanti, cani randagi che rovistano la spazzatura. Chioschi con tavolini e musica a palla, gente che corre dappertutto. Fermata Siete Sur, Managua, Nicaragua. Se fossi sceso alla fermata dopo, se invece di voltarmi a sinistra avessi guardato dall'altra parte, se non mi fossi seduto al finestrino, se il pianto del bambino seduto in grembo alla mamma di fianco a me non mi avesse svegliato, se lei non avesse alzato lo sguardo, se lei non mi avesse visto al finestrino del bus in quel preciso istante in cui mi ero svegliato di soprassalto per le grida di quel bambino e per la brusca frenata dell'autista alla fermata del Siete Sur. Se la sorella che era lì con lei non le avesse detto «Dai, parlagli almeno, dagli una possibilità». Se tutto questo e altri mille lievi imprecisioni, ritardi e deviazioni nella nostra linea spazio-temporale non si fossero verificati, chissà cosa sarebbe successo. Probabilmente sarei rientrato in Italia, seguendo il consiglio di Suor Lucy che quel giorno mi avrebbe dato durante l'incontro. Incontro che era proprio il motivo del mio viaggio su quell'autobus. La situazione era questa qui. ero rimasto da solo in Nicaragua. David, il londinese, era appena tornato in patria dopo un anno. Il suo rientro in emergenza era stato traumatico. Lui, preciso e puntuale londinese Doc, non si era mai ambientato al tumulto tropicale di quello splendido paese di sole, laghi e vulcani. Per quanto riguarda me, stavo passando un brutto momento. Non reggevo più il ritmo di lavoro, dalle 4 del mattino a mezzanotte con una sola breve pausa per il pranzo. Mi occupavo di tutto nell'istituto La Immaculada di Diriamba, scuola di agraria per giovani e adulti rientrati da poco dai vari fronti di una terribile guerra appena conclusa che aveva devastato il Nicaragua per anni. Insegnavo ed ero anche responsabile dell'internato maschile, e quel doppio incarico mi stava uccidendo. Ed è per questo che avevo chiesto alla madre superiora di esentarmi dall'internato per recuperare qualche ora di sonno. Ma non era questo a pesare di più. La cosa peggiore è che lei mi aveva detto che era tutto finito, che sarebbe partita per gli Stati Uniti perché quella era la volta buona e avrebbero dato il visto. Non poteva lasciarsela scappare. Insomma, aveva deciso e quindi tra di noi era tutto finito. La decisione di partire per il Nicaragua è legata all'esperienza di volontariato. Finito il liceo e dopo il servizio civile era quello che mi interessava fare e scoprire com'era il mondo al di là dell'oceano, oltre le colline del Monferrato. Anche se in realtà non era nemmeno propriamente iniziata la storia tra di noi. Lei aveva finito da appena un mese la scuola agraria ed era da allora che avevamo iniziato a frequentarci. Io mi ero innamorato subito, dal primo giorno che l'avevo vista camminare veloce e leggera nell'istituto. Camicia bianca, cravatta e gonna blu appena sopra il ginocchio. L'uniforme impeccabile degli alunni dell'ultimo anno e con i capelli raccolti all'indietro. Camminava a passi leggeri, sembrava lievitasse a 10 centimetri da terra. Si era diplomata da poco ed avevamo iniziato a vederci solo allora, dopo esserci corteggiati da lontano con sguardi furtivi e lettere lasciate in punti segreti dell'istituto. Eravamo anche usciti un giorno alla laguna di Xiloa, giornata fantastica. Un bacio infinito all'imbrunire, seduti vicino all'albero centenario dove, dice la leggenda degli Indios, una principessa indigena si era lanciata ed immersa perdendosi nel fondo della laguna per raggiungere l'amato che era stato ucciso. Insomma, sembrava un film, quella storia d'amore. Ma nei giorni successivi tutto il mondo mi crollò intorno. David se n'era andato e a lei avevano detto che questa volta sarebbe arrivato il visto per gli Stati Uniti. Il visto per un sogno, come diceva la canzone del momento di Juan Luis Guerra, buscando visa per un sueño. In quegli anni tutti in Nicaragua speravano di un visto, in un visto per il sogno. Un visto per fuggire l'incubo quotidiano di un paese appena uscito da una guerra terribile. Questa era la situazione. Ed io quel giorno stavo andando da Suor Lucy con lo stato d'animo sottoterra. Sentivo che quell'avventura straordinaria stava per volgere al termine. Cercavo di elaborare la disfatta ripetendomi che c'erano molte cose da salvare in quell'anno. Questo era lo stato d'animo che portavo a quell'incontro. Ma quel giorno lei era lì, alla fermata del Siete Sur. Ed io scesi trafelato dall'autobus. Con timore la salutai. Parlammo per pochi minuti. E alla fine lei disse: starò a Managua da mia sorella per un po'. Sembra che i tempi per il visto si allunghino. Se vuoi, passa a trovarmi una di queste sere. Tanto bastò per darmi forza sufficiente e all'incontro dissi a Suor Lucy che avevo deciso di restare in Nicaragua. Stringendo i denti, volevo continuare con il mio impegno. Lei acconsentì e mi esentò dall'impegno con l'internato. In realtà non avevo certezza alcuna di come sarebbe andata a finire, era una scommessa. Oggi sono passati 21 anni insieme, due splendide figlie ci hanno raggiunto sul cammino. Adesso sì, siamo grandi abbastanza. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep and the saviors who are pass to sleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. C'è una foto che tutti i giorni pubblichiamo sul nostro sito, alla nostra pagina, voi siete qui sul sito di Radio 24, c'è un titolo, si chiama Cartoline dal Nicaragua, la foto che abbiamo postato oggi, ed è la foto che l'autore della storia ci ha mandato. Noi di solito chiediamo un ritratto, un autoritratto, insomma un autoscatto, un selfie, chiamatelo come volete. In questo caso però è una foto di famiglia quella che ci manda Marco, ci sono lui, lei ovviamente, marito e moglie, e le due bimbe che in questi 21 anni sono arrivate. Pronto Marco? Pronto Marco? Sei in Nicaragua? Marco? Sei alla fermata all'auto? Pronto? Eccoti qua! Eccoci! Come stai? Ciao Matteo! Mentre Paolo Corleone si fa aria, temeva che la telefonata fosse finita chissà dove. Dove ti trovi Marco? Sei in Piemonte? Sei sì, al lavoro? Sono ad Asti, sono qui vicino, sì. Sei ad Asti? Sì. Ma non, scusami, non abiti in Monferrato tu? Sì, vicino ad Asti, non distante dalla città, abito ad Asti e lavoro vicino, in provincia. Ah, ok, ma scusami, sì. un passo indietro, Asti è ancora considerato Monferrato? No, sì. Nelle colline del Monferrato, assolutamente. Ah. Per me il Monferrato era solo tutto quello che circonda Casale Monferrato, però io sono di Novara, quindi evidentemente ho una cattiva idea della geografia del Piemonte. Senti Marco, partiamo da questa foto, perché sono passati 21 anni e voi sembrate ancora giovanissimi, cioè sembrate, siete giovanissimi, perché eravate giovanissimi quando vi siete incontrate, tu e tua moglie, giusto? Sì, avevo 21 anni allora, mia moglie era ancora più giovane, 18, e quindi eravamo giovani ed era, diciamo, il mio primo lungo viaggio per volontariato. Dopo... Marco, tu ci hai mandato sempre, questa la dicevo prima, la terza storia che mandiamo, tua, e tu ci hai sempre mandato storie di viaggio, di fatto. Una volta era proprio una delle prime puntate, mi pare, della prima stagione, eri in viaggio con una guida indiana in mezzo alla neve, in Nevada forse, no? Dove ti trovavi? In Nebraska. In Kansas. Benissimo, l'ho beccato, esatto. In Kansas. Poi era l'esperienza, sì. La tua esperienza di scuola sempre negli Stati Uniti come ultimo anno delle superiori, giusto? Sì, l'anno di intercultura. E adesso invece siamo in Nicaragua. E in realtà, scusami, in realtà Nicaragua ti ha dato molto di più delle altre. Ti ha dato una moglie e una famiglia. Mi racconti cosa è successo da lì in avanti? Cioè tu sei sceso e lei ti ha detto: va bene, dai, senti, sto qua a Managua per qualche tempo, vediamoci, sto visto è arrivato, non è arrivato, siete partiti per l'Italia insieme? Allora, è passato ancora circa un anno e diciamo ci siamo lì poi conosciuti meglio. E i tempi poi che Giasmina mi dava erano lunghi, si diceva dovrò finire prima l'università. Insomma, poi per farla breve, nel giro di meno di un anno ci siamo sposati in Nicaragua, siamo rientrati in Italia e poi dopo un periodo ad Asti siamo ripartiti per il Venezuela per un'altra esperienza di volontariato con gli amici del Servizio Volontario Internazionale di Brescia e poi siamo stati volontari a Birmingham, Alabama. Insomma, sono stati anni intensi per le vie del mondo, per le periferie, per come a me piace chiamarle, ma forse un po' dimenticate. Marco, scusami, sì. Tu mi ricordi che mestiere fai? Perché per il tuo mestiere tu continui a girare, giusto? Io continuo a girare, tra l'altro un po' anche nei paesi dove sono stato volontario. Io sono un impiegato commerciale, seguo l'export per una ditta da tanti anni ormai e diciamo che E poi nel tempo libero, per quanto mi riguarda, invece Jasmina, anche nel tempo pieno, perché lei è educatrice, prosegue l'impegno nel sociale. Ho capito. E continuiamo, insomma, a sensibilizzare, a parlare di progetti, di volontariato. E d'altra parte fa parte di noi, insomma, l'abbiamo proprio come vocazione. Quanti anni hai adesso, Marco? 45. Hai 45 anni. Quante volte siete tornati in Nicaragua? Cioè, ogni quanto andate in Nicaragua? Ogni tanto prendete un aereo e andate a trovare i genitori di Jasmina oppure vengono loro? Normalmente ci spostiamo noi. In Nicaragua sono passati alcuni anni, ma abbiamo fatto una grande riunione di famiglia a giugno dello scorso anno e tra l'altro abbiamo festeggiato anche i 15 anni di Anna Gabriella, la nostra figlia grande, che i 15 anni sono poi una tradizione particolare, la festa per il compleanno, c'era mia suocera, c'era tutta la famiglia, ci siamo ritrovati nel sud della Florida, perché come molti latinoamericani, per questa volta sì, però torneremo presto, cerchiamo di tornare il più possibile. Guarda, non ho tantissimo tempo, ho veramente 30 secondi, sì. Però com'è la situazione in Nicaragua adesso? Perché la tua storia risale proprio appena dopo la guerra civile, giusto? Quella che devastò il paese. Allora, Nicaragua veniva da 50 anni di dittatura, poi gli anni 80, 10 anni di guerra durante il periodo sandinista. Certo, poi la CIA ci mise del suo. Esatto, e poi negli anni 90 la lenta transizione per una situazione più di tranquillità. Adesso al momento è abbastanza relativamente tranquillo, anche perché Nicaragua è un paese ancora legato all'agricoltura, forse meno di altri paesi più dove c'è più concentrazione nell'area urbana. Chiaro. Tutto sommato, qual è la cosa la cosa più bella, poi devo salutarti, è la cosa più bella del Nicaragua? Ovviamente, a parte oltre Jasmina, il paesaggio è un paese splendido, di laghi, di vulcani. Centro America pieno, insomma. Esatto, sì, è la parte emersa, l'ultima del continente, quindi è in continuo movimento, ci sono vulcani attivi dappertutto. Ovunque ti giri c'è un vulcano attivo, fantastico. Attivo. Marco, grazie ancora, in bocca al lupo. Ciao a Jasmina e alle bambine. Grazie. Ciao. 349-238-6666, chiudiamo con messaggio. Io mi innamoro ogni giorno in pullman, ma non credo di fare testo. No, non fai testo, appartiene a una categoria che conosco bene. In pullman al ritorno da una maratona, vicini di sedile innamorati quasi istantaneamente, ma amore consumato subito lì nell'ultima fila mentre tutti dormivano. Manu da Pesaro, vogliamo immaginarla così questa cosa, Manu da Pesaro, ci crediamo proprio completamente, questa ultima fila dell'autobus, poi dopo la maratona, tra l'altro dicono che ci mette un mese il corpo a riprendersi dopo la maratona. Grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Ina, che hanno reso possibile anche questa puntata. Grazie soprattutto a Marco. Voi intanto continuate a raccontare storie e ad ascoltarle in podcast dal sito di Radio 24. Grazie soprattutto a Marco, dicevo, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Davide, vengo da Portichetto. La storia di domani è la mia e racconta di quando mi sono trovato con la persona giusta, nel posto giusto e nel momento giusto. Questa è la mia storia e io sono qui.